Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'inizio di una nuova settimana da passare assieme. A Giulio Caperdoni, che vi sta parlando ad Eclettica, che inizia come tutti i giorni alle ore 19, e a voi, ascoltatori di Rock FM. E da quello che scrivete sulle pagine di myspace.com/eclettica, sembra che molti fra voi ascoltino la trasmissione andando a casa, in macchina, la sera, uscendo dal lavoro. E quindi vi immagino in molti di più questa settimana rispetto alla settimana scorsa. Vengo dal fondo della valle, amico, dove quando sei giovane ti tirano su per farti fare la stessa vitaccia che ha fatto tuo padre. Io e Mary ci siamo conosciuti alla scuola superiore, quando lei aveva solo 17 anni. Guidavamo fuori da quella valle fino a dove i campi erano verdi. Andavamo giù al fiume e nel fiume ci tuffavamo, correvamo fino giù al fiume. Poi ho messo incinta Mary e, amico, è stato tutto quello che lei mi ha scritto. E per il mio 19° compleanno ho avuto un libretto di lavoro e un abito da cerimonia. Siamo andati giù al municipio e il giudice ha messo le cose a posto. Nessun sorriso da matrimonio, niente sfilata in chiesa, niente fiori, niente abito da sposa. Quella notte siamo andati giù al fiume e nel fiume ci siamo tuffati. Trovai un lavoro ai cantieri della Johnstown Company, ma poi il lavoro diminuì a causa della crisi economica. Adesso tutte le cose che sembravano così importanti, beh, amico, sono scomparse nel nulla. Adesso io mi comporto come se non le ricordassi, Mary come se non le importasse più nulla, ma io mi ricordo le nostre corse nell'auto di mio fratello, il suo corpo abbronzato e bagnato giù al lago. Di notte su quelle sponde restavo sveglio e la stringevo a me solo per sentire ogni suo respiro. Adesso questi ricordi ritornano per perseguitarmi, mi perseguitano come una maledizione. Un sogno che non si avvera è una bugia, o è qualcosa di peggio, che mi manda giù al fiume, nonostante io sappia che il fiume è in secca, prosciugato. Che mi manda giù al fiume stanotte, giù al fiume, la mia piccola ed io, giù al fiume, corriamo. Questa era The River di Bruce Springsteen. I will not swim. Fiorì non voleva morire, non gli faceva paura nulla e l'è sempre andato un culo a tutti. Ma il ciclone soffiò nell'estate del 96 e portò via anche lui. Sì, perché il ciclone quando arriva non è che t'avverte, passa, piglia e porta via. E a te? Non ti rimane altro che restare lì buono a capire che forse, se non fosse passato, sarebbe stato parecchio, ma parecchio peggio. Took my sister down to the ocean, but the ocean made me feel stupid. Those words of wisdom I had prepared all seemed to vanish into thin air. Into the waves I stared. Picked up a seashell to illustrate my homelessness, but a crab crawled out of it, making it useless. And all my metaphors fell flat down on the rocks where we sat. She asked where you at. But sister, it's the opposite of hallelujah. It's the opposite of being you. You don't know, cause it just passes right through ya. You don't know what I'm going through. You don't know what I'm going through. You don't know what I'm going through. We made our way home on the bikes we had borrowed. I still never told you about unstoppable sorrow. You still think I'm someone to look up to. I still don't know anything about you. Is it in you too? You got so much to live for. Sister, you got so much to live for. But sister, it's the opposite of hallelujah. It's the opposite of being you. You don't know, cause it just passes right through ya. You don't know what I'm going through. You don't know what I'm going through. Sono due uomini e due donne, fanno di base a Chicago, ma è lì che si sono ritrovati arrivando da Detroit, da Portland e da Los Angeles. Mi hanno particolarmente colpito con il loro disco d'esordio, uscito da poco, disco registrato fra Chicago, negli studi di John McIntyre, e New York. Si chiamano Speck Mountain, E Stockholm è il pezzo che ha aperto Eclettica di quest'oggi. Poi è stata la volta invece dello scandinavo Jens Lekman, anche lui in uscita con un nuovo disco, però in uscita il 9 di ottobre per Secretly Canadian, quindi non è ancora disponibile nei negozi. Disco che si intitolerà Night Falls Over Kortedala. E invece Eclettica che prosegue con un nome nuovo. Lei non è di primissimo pelo, è statunitense, si chiama Marnie Stern, del 1976, ma solo adesso esordisce con il suo primo disco, senza aver avuto chissà quali esperienze significative prima. Esordisce grazie a Kill Rock Stars, anzi l'ha fatto ormai qualche mese fa, io me ne sono accorto solo adesso dell'uscita di questo In Advance of the Broken Arm, dal quale ho estratto il pezzo che ha per titolo Put All Your Eggs in One Basket and Then Watch That Basket. Continuano a fare gare ai Trestles, ma quel sangue non è mai scorso nelle sue vene. Ho sentito che ora ha trovato casa, su a Fairview, e che cerca di mantenere un certo stile. Bene, se mi vuole vedere, puoi dirle che è facile trovarmi. Dille che c'è un angolo proprio sotto l'Abrams Bridge e dille che c'è l'oscurità ai margini della città. Tutti hanno un segreto, Sonny, qualcosa che non possono guardare in faccia. Alcuni passano tutta la loro vita tentando di mantenerlo. Lo portano con loro in ogni passo che fanno. Fino a che un giorno se ne liberano o lasciano che esso li trascini sul fondo, dove nessuno fa domande o ti guarda troppo a lungo in faccia, nell'oscurità ai margini della città. Alcuni nascono sotto buone prospettive, altri se le procurano comunque, in ogni modo. Io ho perso i soldi, ho perso mia moglie, ma queste cose non mi sembrano importare tanto ora. Stanotte sarò su quella collina, perché non posso fermarmi. Sarò su quella collina con tutto quello che mi è rimasto. Vite sul confine dove i sogni vengono trovati e si perdono. Sarò là in tempo e pagherò il prezzo per volere le cose che si possono trovare soltanto nell'oscurità ai margini della città. Questa era Darkness on the Edge of Town di Bruce Springsteen. Mm-hmm. sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets, ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails. Heads are a science apart. Quale c'è sto amore? Pirivi! Pirivi! Pirivi! Pirivi! Oh Carlina, ma sei ubriachi, te l'ho detto. Topica, una topica solenne mi sono presa, per settimane poi, e nessuno che abbia scritto Giulio tra di rockfm.com per tirarmi le orecchie. Comunque l'altro giorno leggo di Linda Perry dei Four Non Blondes e dico Linda Perry. A questo punto devo decidere se esternare il tutto in trasmissione o far finta di niente, perché io per un lungo periodo, tutte le volte che ho trasmesso questa cover dei Coldplay passata qualche minuto fa da parte di Jeanette Napolitano, dicevo Jeanette Napolitano, ex Four Non Blondes. Avevo questo blonde nella testa, sono andato a ricontrollare e Jeanette Napolitano è un ex Concrete Blonde, che è ovviamente tutta un'altra storia. Ho deciso di parlare, di sciacquare i panni di fronte a voi. Spero che la cosa sia apprezzata. Ci siamo anche ascoltati nel frattempo qua in Eclettica Rain da parte dei new yorkesi Bishop Allen, ed era da un po' di tempo che non succedeva. Prima parte che si chiude per poi riprendere per altri 30 minuti con i Marchos che ci cantano della Toscana.